Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Sono lieto, felice di presentare il vincitore, la canzone vincitrice del Festival di Sanremo. Chiamami ancora amore, Roberto Vecchioni! Oggi abbiamo deciso di partire dal gran finale. Sanremo 2011. Gianni Morandi, presentatore della 61esima edizione del Festival della Canzone Italiana, sta proclamando il vincitore, Roberto Vecchioni. Una vittoria inaspettata che surclassa cantanti molto più giovani di lui. Una vittoria della vecchia guardia, di un cantautore che da 40 anni racconta il suo mondo interiore attraverso le canzoni. Con la voce rotta dall'emozione, quasi fosse un esordiente, Vecchioni ringrazia pubblicamente sua moglie e le dedica la vittoria. Una persona mi ha detto, quando sei uscito da quelle quinte e sei andato verso il microfono, mi sembravi un bambino piccolo piccolo vestito di blu. E io pensavo, diceva quella persona, adesso è là ed è solo, non ci sono più io, è solo davanti a tutta questa gente. E se non lo capiranno? E io adesso rispondo a questa persona. Io non sono mai stato solo in quei 4 minuti, perché in quei 4 minuti avevo un filo che mi legava continuamente a te e non me ne fregava niente se non mi capiva nemmeno una persona. Mi bastava che mi capissi tu come hai fatto per 30 anni. Grazie, amore mio. A volte, quando si arriva a un certo punto della propria carriera, dopo anni di successi, sembra impossibile riuscire a emozionarsi ancora. Ma questo è proprio ciò che accade a Roberto Vecchioni, classe 1943, la sera in cui vince per la prima volta il festival. Un altro traguardo raggiunto per un cantautore che ha saputo conciliare in un binomio perfetto la passione per la musica con l'amore nei riguardi di un elemento della vita dell'uomo troppo spesso sottovalutato, la cultura. Ma per capire a fondo come sono nate queste passioni, andiamo a ripercorrere l'incontro con alcune persone che con il loro contributo hanno reso grande Roberto Vecchioni, persone speciali, come i suoi genitori. Quando uno ha due genitori napoletani praticamente conosce tutto il mondo già da piccolo, perché i genitori napoletani si dividono, si spartiscono il cosmo, fanno così. La mamma è straordinariamente presente, attenta a tutto, donna intelligente, solitamente tutte le donne meridionali sono molto svelte e intelligenti, è di grande affetto, di grande tenerezza e grande protettrice dei figli. Uomo, cioè papà, assolutamente inaffidabile, testa di cavolo tremenda, grande lavoratore, questo sì ovviamente, ma giocatore, perditempo e donnaiolo. Se riesci a prendere bene queste due cose insieme diventi anche equilibrato, se non riesci a prenderle bene diventi cantautore, scrittore e professore. Ti sei giocato donne che impazzivano per te, eppure un giorno hai pianto in un caffè. Ci sono stati giorni da piantare tutto lì, eppure li hai giocati sorridendomi così. Per te l'estate non comincia, non finisce mai, e vivere la vita come fai? Cantante, scrittore e professore, tre professioni in una. Sembra difficile trovare un modo per conciliare attività così diverse, eppure è lo stesso Vecchioni a giustificare la convivenza delle sue passioni. Mi piace che tutto ciò sia in un uomo, in una persona, perché io sono un misto di tutte queste cose. Non posso staccare il musicista dall'insegnante. Il musicista ha insegnato all'insegnante, l'insegnante ha insegnato al musicista. E i ragazzi mi hanno insegnato un sacco di cose. Io ho passato 40 anni della mia vita con i ragazzi. Roberto Vecchioni è innanzitutto un insegnante, È questa la sua professione principale. 40 anni a insegnare latino e greco in un liceo. E adesso, raggiunta la pensione, una cattedra all'Università di Pavia. Una vita dedicata alla ricerca del significato arcaico delle parole per studiarne l'evoluzione. Una laurea in lettere antiche contro il volere del padre, convinto che con una laurea così difficile sarebbe stato altrettanto difficile trovare un lavoro. Senza contare il fatto di essere cresciuti in un periodo in cui la contestazione giovanile mette in discussione tutto, a cominciare dall'autorità che lo Stato affida ai suoi insegnanti. Ma la passione per i classici, per il pensiero filosofico antico da cui ogni moderno pensiero deriva, la passione per la parola con la P maiuscola, può far superare ogni ostacolo. Ci fa intelligenti e sensibili insieme. E quello che abbiamo noi non ha gli animali. La parola è un mistero fittissimo ed è la gioia di vivere fatta scrittura. Non conosco niente, anche nemmeno la musica. Non conosco niente di più geniale dell'invenzione della parola. Quest'amore per la parola, per le sue mille combinazioni, Roberto Vecchioni la coltiva sin da ragazzo quando, per vincere la sua timidezza, impara a suonare la chitarra e inizia a scrivere canzoni. La musica è stato uno dei sistemi per uscire dalla timidezza. Imparando a suonare la chitarra e suonando le canzoni alle ragazze, le coccavo pure, perché se no non ce la facevo da solo, non riuscivo a organizzare un discorso, diventavo tutto rosso. Un rimedio contro la timidezza. Questo è stato il primo motivo per cui Roberto Vecchioni si avvicina alla musica. Eppure col senno di poi si scopre che c'è un significato più importante da dare a quella rapida successione di note musicali capace di descrivere ogni tipo di emozione, dall'amore alla paura, dalla rabbia all'ironia. La musica è il coro della tua esistenza, è quella che si sovrappone alle parole e ai rumori e ti dà il vero intendimento delle emozioni che stai provando. Le parole a volte sfuggono, ma anche i gesti, anche le azioni, anche gli esempi. La musica ti riporta continuamente al concreto delle tue emozioni. E sono sempre belle d'amori e di più belle al mondo non ce n'è. Belle di sogni, belle da stordire, perché le mie ragazze sono uguali a me. Per non pesare troppo sul bilancio familiare, Roberto Vecchioni cerca un modo per pagarsi gli studi e inizia quindi a esibirsi con la chitarra nei locali milanesi. Si fa il cabaret e tra uno spettacolo e l'altro c'è sempre qualcuno che intrattiene il pubblico con piccoli spettacoli musicali. Però la gente ha voglia di divertirsi, vuole ascoltare le canzonette e Vecchioni non scrive quel genere di cose. I suoi testi sono molto impegnati, sempre alla ricerca di elaborazioni linguistiche che spesso risultano essere troppo difficili, quasi incomprensibili. Era necessario che io scrivessi per altro, che nessuno si... non so che per te, il termine più giusto si sarebbe si cagava le mie canzoni. Posso dire, non mi fregava niente a nessuno, perché le mie erano complicatissime. Scrivere per gli altri? Sì, è un bel progetto, ma non è che uno si sveglia la mattina e trova un cantante famoso sotto casa pronto a cantare una tua canzone. Bisogna cercare di farsi conoscere e se non si sa come fare, bisogna affidarsi all'intraprendenza di un amico. Il primo magnifico destino di oggi, Andrea Lovecchio. Mi piaceva questo mondo, mi introdussi una volta con un cantante che iniziava allora, che si chiamava Andrea Lovecchio, che strana cosa che il cognome era molto simile al mio, e capii che cosa si doveva fare, bisognava andare, allora c'erano le case discografiche, oggi sono due o tre multinazionali e basta in Italia, tutto il resto è molto privato, allora c'erano tante case discografiche, con scuderie di cantanti, allora si andava in queste case, si portavano le canzoni, sperando che i loro cantanti le cantassero. Il bandolero stanco col cuore infranto stanotte va. Va sul cavallo bianco col suo tormento lontano va. Dove silenzio, dove silenzio, dove? Andrea Lovecchio ha depositato nella sua carriera di autore più di 600 canzoni alla SIAE. Molte sono sigle di cartoni animati e telefilm come Ubinda, Astroganga, Gundam. Ma ci sono anche canzoni più impegnate, interpretate da Bruno Lauzi, Dick Dick, Mina. Agli inizi della carriera anche lui cerca di piazzare qualche canzone nelle case discografiche e Roberto Vecchioni è un valido compagno di avventura. Oppure si facevano i cover importantissimi già da allora, cioè ti davano dei pezzi molto stranieri, molto noti, e tu traducevi, mettevi un testo italiano, perché non era ancora di moda la canzone straniera così tout court. Tutti gli anni 60 sono stati fatti di canzoni americane tradotte in italiano. Alla fine l'occasione arriva e così un giovanissimo Roberto Vecchioni, grazie alla collaborazione con Andrea Lovecchio, scrive la versione italiana di Barbara Ann dei Beach Boys, interpretata dai Pop Seven, cantando addirittura l'attacco iniziale dei cori. Non è che l'inizio, perché quando uno sa scrivere bene, la sua strada la trova facilmente. Il sodalizio con Lovecchio continua per alcuni anni, durante i quali i due collaborano con Ornella Vanoni, Iva Zanicchi e i Nuovi Angeli, per i quali scrivono Donna Felicità. Fare l'autore è sicuramente divertente. In questo modo è possibile dare libero sfogo al proprio talento e lasciar scorrere la penna. Però quando uno le canzoni le scrive, è inevitabile che a un certo punto gli venga voglia anche di interpretarle in prima persona. E conoscendo i discografici, prima o poi l'occasione arriva. Ma il disco del debutto intitolato La Pioggia passa inosservato da tutti. Vecchioni rimane deluso. Forse è il caso di lasciar perdere, di continuare a scrivere per gli altri. Ma in provincia, a Brebbia, un paesino incastrato tra il lago di Varese e il lago Maggiore, c'è un discografico che ha lavorato alla CGD e ha una capacità particolare. Quando nel 1958 ha sentito cantare una ragazza dalla voce incredibile, ci ha creduto fino in fondo, trasformandola in quella stella della musica italiana che risponde al nome di Mina. Si chiama Davide Matalon e a Brebbia ha uno stabilimento di duplicazione di dischi e audiocassette e una piccola casa discografica. Gli piace scovare talenti e questo cantautore milanese che ama tanto la letteratura greca lo convince e decide di produrlo. Povero ragazzo, sapessi dove adesso la tua donna. Povero ragazzo, sì, la tua bambina, quella che tu credevi una bambina. Povero ragazzo. Il primo disco l'ho fatto in 3 giorni. Mi hanno dato questa sala per 3 giorni, ho detto per premio, perché tu quest'anno ci hai fatto fare un bel fatturato, bla bla bla bla bla, ti regaliamo la sala 3 giorni. Avessero detto 1 mese. Chiedete in giro come si fa a fare un disco in 3 giorni, nell'EP c'è allora, cioè 12 canzoni. Parabola fu un disco fatto per pochi. Avevo qualche amico in radio, glielo portai, fecero sentire qualche cosa. Davide Matalon, un altro magnifico destino sulla strada di Roberto Vecchioni, ha pubblicato il primo LP del cantautore milanese. Quasi tutti i brani sono scritti insieme ad Andrea Lovecchio. I due lavorano molto bene insieme, condividono un metodo di lavoro ben preciso, dando la stessa importanza a tutte le componenti che contribuiscono a formare una canzone. Perché la canzone è il genere che io amo di più? È il genere che amo di più perché mette insieme le due fatti comunicativi che io adoro, ovvero sia questo blaterale non convulso ma intelligente, che è mettere insieme parole e quindi tentare di raccontare una storia, e poi quest'altro bellissimo che è la musica. Il disco in realtà non raggiunge grossi risultati, ma serve a Vecchioni per farsi conoscere anche nell'ambiente discografico come interprete. Tra le canzoni di quell'album ce n'è una che non ottiene subito il successo che merita, ma è destinata a diventare uno dei suoi brani più famosi. La Lucia Sassiera è una storia particolare, parla della periferia di Milano dove andavo a far l'amore con la mia ragazza. La sera stessa che sono partito militare mi sono lasciato con lei, dopo 5 anni che eravamo insieme, un grande amore. E così io scrissi quella notte Lucia San Siro, quindi 2 anni prima di registrarla. Ma chi lo sapeva che sarebbe stato un successo? Non lo sapeva nessuno. Ma stai barando, tu stai gridando, così non vale, è troppo facile così. Trovarti, amarti, giocare il tempo sull'erba morta con il freddo che fa qui. San Siro è un quartiere di Milano, ma la maggior parte di noi identifica questo nome con lo stadio Meazza, lo stadio dove giocano le due squadre di Milano, il Milan e l'Inter. Già, l'Inter, un'altra grande passione per Roberto Vecchioni. Una certezza, più che altro, da quando, appena quindicenne, comincia ad andare a vedere le partite dove giocano Lindskog, Corso, Angelillo, i grandi campioni allenati da Elenio Herrera, e lui è lassù, sugli spalti, in mezzo ai boys, a soffrire e gioire per una squadra che ha dato tanto alla storia del calcio italiano. Inter, Inter, più forte che mai, persino il cielo è nerazzurro ormai. Inter, Inter, più grande che mai, tutta San Siro grida gol. Un amore incondizionato quello di Vecchioni nei riguardi dell'Inter, tanto da portarlo a scrivere nel 1971 una canzone per la sua squadra del cuore, Inter Spaziale. La canta il calciatore Mario Bertini e rimane l'inno ufficiale per più di 10 anni. Noi ci ritroveremo ancora insieme davanti a una finestra, ma molte, molte lune in là e poche stelle in meno. Forse sarai stanco per la corsa del topo, probabilmente vecchio per inventare un nuovo gioco. Dimmi come ti inganni, e quando avrò i tuoi anni? Lei ci avrà già lasciati in fondo a qualche data, probabilmente a maggio. I magnifici destini. La musica non è solo melodia, La musica è fatta di armonia e ritmo. Ci sono 3 cose. C'è chi non le distingue, queste 3 cose. Chi va a caso o a casaccio, ma in realtà è come se questi 3 elementi della musica fossero una rappresentazione fonetica della nostra personalità. Perché la melodia è quello che pensi e senti al momento. L'armonia sei tu, invece, la tua personalità. Tu puoi fare melodie diverse, ma le armonie risponderanno sempre a un certo cliché, perché sei tu fatto in quel modo. E il ritmo è la tua rabbia o la tua gioia in un determinato periodo della vita. Melodia, armonia e ritmo. Questi sono dunque i 3 ingredienti fondamentali per una canzone, secondo Roberto Vecchioni. Una carriera nel mondo della musica iniziata come autore a scrivere per gli altri. Poi la svolta per diventare cantautore fra i dischi interpretando le sue canzoni. E certo, non si può dire che sia in cattiva compagnia. Da quando ho conosciuto Francesco Guccini siamo stati insieme per anni, ci siamo conosciuti, scambiati idee. È stato molto bello capire che la canzone italiana aveva bisogno anche di parole non sempre facili, che bisognava svegliare un po' le coscienze. Senza annoiare, senza rompere i maroni, perché anche questo era giusto. Dopo il primo album, Parabola, escono altri 2 dischi e una partecipazione a Sanremo. Manca però ancora il grande successo popolare, quello per intenderci che ha come conseguenza anche un altro grande impatto sul mercato discografico. A Vecchioni più di tanto non interessa, a lui piace fare il cantautore per poter raccontare le proprie emozioni, ma il suo lavoro principale adesso è diventato quello dell'insegnante e in fondo va bene così. Pesa la notte prima di ricominciare, e tante veglie come soglie di un mistero, per arrivare sempre più vicino al vero. Fra tutte le sue produzioni dei primi anni 70, la canzone che ha più successo è la sigla della serie a cartoni animati Barba Papà, che lo stesso Vecchioni interpreta con un gruppo di bambini. Tu li vedi trasformati. sono Barba Papà, Barba Mamma, Barbidù, Barbuil, Barba Bella, Barbadura, Barbottina, Barbidù, Barba La La. Sembra assurdo ottenere successo con una canzone per bambini quando si passa la vita a scrivere di argomenti ben più seri e difficili. Poi il massimo dell'ironia può capitare quando si scrive una canzone sulla morte e la si confonde ancora una volta con una canzone per bambini. È quello che accade nel 1977 quando esce il successo più grande di Roberto Vecchioni, Samarcanda. Eh sì, fu una cosa abbastanza miracolosa quella di Samarcanda, perché Samarcanda adombra alla fine di mio padre. Mio padre se n'è andato nell'anno di Samarcanda. La metafora è abbastanza chiara: lui stava male, poi improvvisamente per le cure è stato benissimo e allora credeva di essere salvo, e invece proprio quando stava meglio è arrivata di nuovo a rendergli il re d'azione la bella signora nera, che a chiedergli: tu credevi di star bene, invece devi venire con me. La canzone risente molto l'influenza della musica celtica di cui è appassionato Roberto, ma c'è una parte degli arrangiamenti che dà un tocco particolare alla canzone e la rende unica. L'introduzione di violino che caratterizza la melodia e le dona quella dinamicità che invita all'ascolto. Un violino che viene suonato da un amico e collega di Vecchioni, un altro magnifico destino del cantautore milanese, Angelo Branduardi. Alla fiera dell'est, per due soldi, un topolino mio padre comprò. Alla fiera dell'est, per due soldi, un topolino mio padre comprò. Branduardi è un musicista di grande capacità, è uno studioso della musica. Ogni sua composizione è il frutto di un lavoro di ricerca che attinge alle basi della storia antica. Non è difficile per lui trovarsi in sintonia con un professore di latino e greco che vuole affrontare il problema della morte raccontandolo attraverso un mito. La canzone è un... ecco perché uno fa anche storia delle religioni. È un mito universale. Cioè esiste in quasi tutte le popolazioni la storia del corvo, del coyote o del servo che viene ingannato dalla morte. Un mito antico, come lo sono i miti latini e greci con cui il professor Vecchioni ama convivere giornalmente nelle aule di scuola. Non è quindi difficile trovare ancora una volta le parole giuste per raccontare questa storia alla gente. Mi venne subito questo motivo e sapevo che cosa fare di parole, però ero molto gasato, stavo viaggiando da Milano a Bologna in autostrada e io scrissi mentalmente tutto il testo di Samarcanda, non mi fermai nemmeno a scriverlo, lo sapevo a memoria a Bologna. Quando arrivai a Bologna lo tirai giù ed era fatta la canzone. Il successo della canzone è tanto inaspettato quanto travolgente. Il tema è difficile, impegnativo, ma c'è qualche piccolo elemento che rende il testo più commerciale del solito. E questo provoca una reazione a catena che porta a vendere in una sola settimana ben 70.000 copie. Succedeva per i grandi, succedeva per i Baglioni, succedeva per i Venditti, per il Renato Zero, non per me, perché non... che poi oltretutto a cifre così elevate, 70.000, poi ne ha vendute molte di più Samarcanda. Mi ha dato uno shock tremendo, cominciavano a conoscermi tutti per strada e io che ero timido un po' per i fatti miei non sapevo più come sfuggire e scappare, e poi tutti che avevano preso quella canzone, molti che avevano preso quella canzone come una specie di furia a cavallo del West, perché c'era un cavallo e pensavano fosse per i bambini. E bisognava spiegarlo ogni volta alle radio: ma guardate, ma l'avete sentita bene? Perché le parole a volte non si sentivano. Non è proprio una canzone per bambini. La canzone entra a far parte del repertorio classico, delle feste tra amici, dei falò in riva al mare, delle serate trascorse in compagnia davanti al caminetto. Una di quelle canzoni che chiunque prende in mano una chitarra impara, mettendo uno dopo l'altro gli accordi. Roberto Vecchioni non si aspetta un successo così travolgente e reagisce a modo suo. E fu un successo meritato e immeritato insieme, gli autografi, le cose. Dovetti stare qualche mese chiuso a casa perché non riuscivo a digerire questa nuova situazione di popolarità. hanno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzi. I magnifici destini. Sono lieto, felice di presentare il vincitore, la canzone vincitrice del Festival di Sanremo. Chiamami ancora amore, Roberto Veccioni! Ed eccoci tornati all'inizio della nostra storia, o meglio, al suo finale. Un gran finale, come si concede agli ospiti illustri, con un caloroso applauso del pubblico che si trasforma in una standing ovation. Questo è il riconoscimento che Roberto Vecchioni riceve dal pubblico del Teatro Ariston di Sanremo. Un applauso destinato a un grande artista. E pensare che lui neanche ci voleva andare al festival. Ma come? Un professore di liceo classico che ha passato una vita intera a portare avanti con assoluta coerenza un certo modo di pensare ed esprimere la musica, si deve abbassare al livello delle canzonette popolari che lui ha sempre mal sopportato? No, signori. Il professor Vecchioni è assente giustificato e non risponde alle telefonate. Fatti mandare dalla mamma a prendere latte. Devo dirti qualche cosa che riguarda noi due. Ma una telefonata arriva. E proprio da quel cantante che da giovanissimo è diventato famoso a suon di canzonette e musicarelli. Quel tipo di Monghidoro in provincia di Bologna, con le mani enormi ma con una voce inconfondibile. Un altro magnifico destino. Gianni Morandi. Vieni, chiude! Ma presto! Vieni! Dai! Presentatore del festival, Gianni Morandi vuole assolutamente che Roberto Vecchioni partecipi come concorrente al festival. Lui, che della canzone facile e popolare è stato portavoce soprattutto agli inizi della carriera. Lui, che è sempre stato interprete e mai autore. Lui vuole un cantautore della vecchia guardia a Sanremo per contrapporsi ai figli dei reality, dei talent show, di tutti quelli che hanno raggiunto il successo in modo rapido e improvviso. Insomma, per ridare lustro al Festival della Canzone Italiana. Abbiamo cominciato 3 mesi fa a lavorare, ad ascoltare, andare a trovare anche gli artisti a casa loro, a convincerli che il palcoscenico di Sanremo è un palcoscenico importante, che perché sai, non tutti amano la gara. Poi, quando uno è timido per natura, l'impresa sembra ancora più difficile. Ma Gianni Morandi è l'eterno bravo ragazzo. E tra ragazzi, magari con qualche ruga e qualche capello bianco, ci si capisce meglio. E così, dopo qualche riluttanza, Roberto Vecchioni decide di partecipare per portare nel tempio della canzone facile un po' di cultura, a modo suo. Perché la riempiremo noi da qui di musica e parole. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore. Continua a scrivere la vita tra il silenzio e il tuono. Difendi questa umanità che è così vera in ogni uomo. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore. Non facciamo tutta questa differenza tra canzone e canzone d'autore. La canzone d'autore è un po' più colta, va, ha qualche metafora in più, obbliga a un pochino più di attenzione nell'ascoltatore, ma in fin dei conti è sempre fatta di emozioni. E la canzone è bella quando le emozioni arrivano, non importa che sia più o meno semplice. Le ricordiamo ancora le immagini di Roberto Vecchioni che ringrazia e saluta il suo pubblico dal palco di Sanremo con gli occhi pieni di emozione. Emozioni che ha imparato a coltivare tra libri di scuola, leggendo i classici di Platone e Ovidio, i versi degli antichi poeti e i ragionamenti dei filosofi greci. Una compagna di viaggio, la cultura, che ha arricchito la vita di Vecchioni e di centinaia di alunni ai quali ha insegnato in 40 anni di carriera scolastica. Anche quando trascorre i pomeriggi negli studi di Telebigino, la trasmissione è andata in onda su una TV locale della Lombardia sul finire degli anni 70. Questa fu un'idea geniale di Cino Tortorella, quello che era il Mago Zulli, che lavorava in Antena 3 nel 78 e chiamò me, e poi io chiamai un professore di filosofia, uno di matematica molto divertenti, con quest'idea: i ragazzi hanno i compiti a casa, se hanno dei problemi chiamano qua e voi li aiutate. Che era facilissima come idea, semplicissima. E andò benissimo. Poi ovviamente avevamo dei cantanti negli intermezzi, delle piccole interviste con attori e cose così, quindi era uno spettacolo vero e proprio. Quando facemmo la festa di Telebigino al parco di Monza, venne qualcosa come 7.000 persone, Quindi era veramente ebbe veramente un grandissimo successo. Una materia, la vita, che ha provato a raccontare in decine di canzoni, piccoli ritratti del pensiero umano per tutti coloro che vogliono ascoltare un po' di musica, ma anche imparare qualcosa attraverso la musica, in un viaggio che non può mai finire. Un po' di